Ciao a tutte e tutti, ecco la nuova puntata di Uru, la 31esima, ormai cominciano a essere tante. Prima di cominciare, come al solito, diciamo i nostri social, il sito internet da dove state ascoltando la diretta, che è wombat.noblogs.org, e da dove potete scaricare i podcast delle trasmissioni che vi siete persi, al sinistro, il primo posto a sinistra ci sono tutte le trasmissioni. Se scorrete, di tutte le trasmissioni potete ascoltare o scaricare tutte le puntate. Poi c'è il profilo Twitter, twitter.com/radiowombatfi. Vi ricordo che Uru ha anche il proprio profilo Twitter, che è Uru trattino basso RW di Radio Wombat. E poi la mail per parlare con noi, per scriverci le vostre impressioni, idee, eccetera, che è postawombat@insiberia.net. Stasera parliamo di uno stato piccolo, ma musicalmente molto importante. Eh sì, parliamo della Guinea. La Guinea in questo caso, per distinguerla, per identificarla rispetto alle altre due paesi che hanno comunque il nome Guinea in Africa, la Guinea con capitale Conakry. Ricordiamo appunto per non incorrere in fraintendimenti, cioè, la Guinea Conakry è francofona, che infatti ha avuto una dominazione, un colonialismo francese, mentre invece le altre due Guinee, la Guinea Bissau, quindi un capitale Bissau, e la Guinea Equatoriale, sono lusofone, e infatti la Guinea Bissau a suo tempo, prima dell'indipendenza, era unita come Stato, seppur sotto tallone, sotto il colonialismo portoghese, tant'è che il Fronte di Liberazione, cioè il partito, diciamo, che portava avanti la lotta di liberazione, si chiamava PAIGC, cioè il Partito Africanista per l'Indipendenza di Guinea e Capoverde, il cui leader, la figura principale, la figura di spicco era Micah Cabral. La Guinea Equatoriale invece è uno stato molto piccolo e tra l'altro lo stato con meno abitanti di tutta l'Africa, poco più di mezzo milione, ed è una curiosità, diciamo, geografica anche, perché è composto da una piccola parte della terraferma stretta tra lì nella zona, diciamo, dove c'è Camerun, Angola e via dicendo. Una piccola parte della terraferma, e l'altra parte di cui è composto lo Stato della Guinea Equatoriale è un'isola situata a 500 km di distanza circa dalla parte della terraferma. Come detto, appunto, noi in questa trasmissione parliamo della musica della Guinea, che ha come capitale Conakry, e che il nome ufficiale, diciamo, di questo stato è proprio Guinea e basta. E la particolarità, al di là dell'aspetto, diciamo, delle varie caratteristiche da un punto di vista musicale, anche da un punto di vista dello strumentale, cioè dell'uso di particolari strumenti, la particolarità della Guinea è che subito dopo l'indipendenza, che il cui leader di maggior spicco era Sekou Touré, uno dei padri, uno delle più grandi figure del panafricanismo fin dagli anni 40-50, Sekou Touré insieme a Kwame Nkrumah, primo presidente del Ghana e presidente del Senegal, Leopold Senghor. Ecco, fin dall'inizio dell'indipendenza, dai primi giorni dell'indipendenza, si assiste in Guinea a un tentativo, poi riuscitissimo, di fare piazza pulita di quelle erano i suoni, la musica dei colonizzatori, in questo caso portoghesi, e una riscoperta delle radici, delle proprie radici, da un punto di vista culturale in genere, da un punto di vista musicale in particolare. La quale riscoperta è stata portata avanti non soltanto isolatamente da alcuni gruppetti musicali oppure, diciamo, tra virgolette, politico sociale in quella, ma è stata portata avanti in una maniera organica con l'aiuto e il sostegno dell'ente statale, diciamo, questo. Teniamo presente che gli enti statali in Africa non si possono assolutamente paragonare a quelle che sono diciamo lo Stato, proprio l'S maiuscola, come siamo abituati a concepire e a subire, diciamo, in Europa o comunque nell'area, diciamo, nel primo e nel secondo mondo. E quindi fin dai primi giorni dell'indipendenza si forma questa sorta di percorso, che porta a questa riscoperta delle proprie radici musicali, e che con il sostegno governativo di tutte le istituzioni, sia sociali sia politiche, del nuovo Stato guineano, indisce gare, indisce festival, indisce audizioni, insomma questo grosso movimento, che poi ha dato ai suoi frutti un vasto programma di riforme a livello culturale e musicale, al fine appunto di restaurare in senso positivo, cioè un ritornare alle proprie radici, per una nuova politica culturale che si identifica con l'autenticità della cultura africana. E quindi gli artisti sono incoraggiati a comporre nuove canzoni con lo stile su cui uno stile moderno si innesca, si innerva su quelle che sono le radici musicali guineane, e si arriva al punto che i musicisti sono addirittura stipendiati, come se fossero insegnanti, come se fossero medici, e via dicendo. Di tutto questo panorama, di tutto questo percorso, che poi ha dato i suoi frutti non solo negli anni 60, ma i frutti arrivano fino adesso, due particolarità saltano d'occhio. La prima, la formazione di un'orchestra guineiana nazionale. Chiaramente in questo caso non si tratta di opera lirica, che la Sili Orchestra, Orchestra Nazionale, porta avanti appunto questa, in una forma molto caratteristica, questa riscoperta della musica e delle tradizioni musicali guineane. E dall'altro lato la creazione di un'etichetta che produce, stampa e distribuisce le canzoni, le incisioni dei musicisti guineani. Diciamo appunto questa Sili Orchestra Nazionale, che poi successivamente, esaurito il proprio compito propulsore, diciamo, di ricominciare, di riscoprire e di diffondere questa musica guineana, questa radice guineana, a sua volta si divide in due band: l'Orchestra du Jardin de Guinée, cui leader è Balla Univuoki, e l'orchestra è La Pialotte, il cui leader è condotta, insomma, Keleti Getuere. A sua volta queste due orchestre, cioè la Gente di Guinée e l'orchestra La Pialotte, assumono altri nomi, e una diventa Balla e Sevalladen, che Balla Univuoki è il leader, diciamo, il compositore, la persona più in vista, diciamo, di questa band, mentre invece l'orchestra della Pialotte diventa, anch'essa assume un altro nome. Ora vi facciamo appunto ascoltare il primo pezzo di questa 31ª puntata, si intitola Cadia Blues, l'orchestra della Pialotte. Thank you. Era l'Orchestra della Pallotte con Cadia Blues, ricordiamo, 31esima trasmissione. 31esima trasmissione di Uhuru, suoni, musica e notizie del continente africano. Appunto Uhuru in onda in diretta il venerdì alle 21.30 e una piccola variazione di orario nella replica del lunedì alle 15, mentre invece la domenica rimane la replica alle ore 10. Quindi domenica replica ore 10, lunedì ore 15, proprio perché si aggiungono nuove trasmissioni a Radio Wombat, al palinsesto di Radio Wombat, e quindi la replica slitta alle ore 15, anche perché prima appunto c'è una nuova trasmissione, si intitola Siamo senza frontiere alle 13, e poi la replica di Passaggio a Nord-Ovest alle 14. E vediamo anche alcuni appuntamenti della settimana, o meglio dei prossimi giorni. Continua al CSA Next Emerson le iniziative per festeggiare l'undicesimo compleanno del Centro Sociale. Stasera, per chi è ancora in tempo, può andare in via di Bellagio, lì vicino al confine, l'ultima strada prima del confine di Firenze, prima del confine del Sesto, compleanno in questo caso anche della Svolta Sound System, un percorso della POS, diciamo del collettivo della la Svolta, 11 anni di Sound System Culture, si intreccia con gli 11 anni del compleanno del Centro Sociale, e siamo alla Svolta Tropic Band, un collettivo, diciamo, musicale del Nord Italia. Domani invece un concerto con Polemica è il nome del gruppo, White Room più Cora, mentre invece sabato prossimo uno spettacolo teatrale incentrato, anzi, che parla della un percorso di lotta del popolo palestinese, intitolato Sumud Filastie. Questi sono gli appuntamenti al Centro Sociale, mentre invece alla Polveriera domani pomeriggio una Poetry Slam che inizia con aperitivo, inizia alle 19.30, mentre invece lunedì 16 allo spazio IAM alle 18 si parla di ginecologi, la scienza delle donne, sul movimento delle donne curde, la nuova università che hanno appena inaugurato. Ricordiamo questo allo spazio IAM in via Baracca. Le lingue africane sono un patrimonio linguistico immenso. Sono valutate tra circa 1200 e 2000. Alcune stime parlano addirittura di 3000 lingue. Come sono raggruppate principalmente in quattro famiglie: le afroasiatiche, che sono 374 lingue diffuse nel Nord Africa e Corno d'Africa. Le più famose sono le lingue berbere, le cladiche, le cuscistiche, le semitiche e la lingua egiziana. E comprendono l'arabo, l'amarico, l'oromo e l'ausa. Poi c'è la famiglia Niger-Congo, che è una delle più ampie del mondo, più di 1500 sono, e sono diffuse nella parte più vasta dell'Africa, cioè l'Africa subsahariana e l'Africa del Sud, e parlate da circa l'85% della popolazione africana. I principali fanno parte di questa famiglia i Wolof, i Fulani, lo Swahili, lo Yoruba e l'Igbo. Poi ci sono le nilo-sahariane, che sono circa 200 e che sono diffuse nell'Africa centro-settentrionale. A questa appartengono il Luo, il Kanuri, il Masai. Poi ci sono i Khoisan, e quindi sono principalmente distribuite nella Tanzania, eccetera. Quindi l'Africa, che è un continente di 55 paesi e oltre 2000 lingue, sembra impossibile, ma le lingue ufficiali prevalentemente utilizzate sono lingue straniere, e cioè il francese, l'inglese, lo spagnolo, il portoghese. Ad esempio, il francese, visto che parliamo della Guinea, che è uno dei paesi in cui la lingua ufficiale è il francese in Africa è parlato come seconda lingua da milioni di persone. Quindi questo fa dell'Africa il continente più francofono del mondo. Tale cifra è destinata a aumentare nei prossimi anni perché si preferisce nelle istituzioni scolastiche parlare e insegnare queste lingue straniere piuttosto che le lingue originarie. La marginalizzazione delle lingue indigene lascia molte lingue africane senza un ruolo preciso. Questo perché una lingua, naturalmente, per sopravvivere deve essere parlata, deve essere viva. Però in contrapposizione a questa cosa c'è tutto un movimento invece in Africa che cerca di ricominciare a utilizzare le proprie lingue in le lingue tradizionali e in vari modi. Ci sono per esempio alcuni popoli che continuano a coltivare la tradizione e a trasmettere oralmente la lingua. Ci sono diversi tentativi di tenere le lingue anche in contesti ufficiali, come nelle scuole. Oppure, per esempio, gli stessi politici spesso usano le lingue madri per rivolgersi a concittadini, perché naturalmente ti fa sentire più vicino al popolo, no? Utilizzando la lingua che loro parlano. Ci sono anche, per esempio, un giornale, il giornale West African Language, il cui scopo è pubblicare articoli e saggi sugli aspetti legati alla lingua africana, e anche diverse università stanno iniziando a tenere corsi nella lingua madre delle popolazioni. C'è da aggiungere anche che a proposito del tentativo comunque di mantenere le lingue tradizionali, le proprie lingue, molto spesso sono anche più figurative, più animate, più belle, insomma, diciamo, delle lingue dei colonizzatori. Ci sono alcuni paesi che l'hanno adottato come lingua ufficiale, per esempio Kenya, lo ripetiamo, Kenya, Tanzania, Uganda utilizzano lo swahili come lingua ufficiale, lingua parlata comunque a tutti i livelli, da quelli istituzionali a quelli di strada, una lingua di strada, e appunto Uru significa libertà in swahili. C'è la lingua l'amharico, che è la lingua ufficiale ed è parlata anche questa da tutti gli strati sociali, in tutte le situazioni in Etiopia, mentre invece il Sudafrica ha scelto di avere come lingue ufficiali il numero di 12 lingue ufficiali, che oltre all'inglese e l'Afrikaans, le altre 10 sono le lingue parlate, diciamo, dalla popolazione sudafricana, cioè parlate Xhosa, Zulu e via dicendo. Ritorniamo alla Guinea, in cui parlano in Fon o in Fulani, oltre chiaramente in francese, e appunto dicevamo è questo nuovo stato indipendente della Guinea che ha istituito concorsi e feste in tutto il paese per suonare le musiche tradizionali della Guinea piuttosto che gli stili europei popolari del periodo coloniale. Il governo istituisce, come abbiamo già detto, nel 1968 l'etichetta Silifon, l'etichetta che abbiamo accennato precedentemente, per registrare la musica e preservare e valorizzare la cultura della nuova nazione. Balles e Balladen erano appunto una parte, diciamo, di questi componenti sono una parte di questa orchestra nazionale di Guinea, che abbiamo detto precedentemente, e sono stati uno dei gruppi più popolari che derivavano da queste iniziative. Al canto ha aggiunto anche uno dei primi gruppi museali di danza moderna in Guinea, a utilizzare anche, oltre agli strumenti tradizionali, fondere la tradizionale musica guineana, un'influenza più più moderne. Tant'è che alcuni membri hanno anche lavorato come musicisti per Miriam Makeba quando si stabilì in Guinea negli anni 70, appunto, quando fu costretta, fuggì e nello stesso momento fu costretta a lasciare Sudafrica. Il gruppo ha preso il nome dal trombettista Balla Univoghi, che è nato a Massenta, una piccola cittadina della Guinea, nella parte sudorientale, e poi successivamente si è trasferito a Conakry, ha studiato il conservatorio, ha partecipato a questi concorsi e queste feste, ha fatto parte dell'Orchestra Nazionale di Guinea e successivamente ha formato Balla e Se Balla Den. Brano facciamo ascoltare Paulette. Thank you. ed era Balles Balladen. Vi ricordiamo di guardare il palinsesto sul sito wombat.noblogs.org, perché sono cambiate parecchie cose, perché fortunatamente cominciano e cominceranno diverse trasmissioni sulla nostra radio, quindi controllatelo sempre perché le cose stanno un po' cambiando. E vi ricordiamo anche l'email postawombat@insiberia.net per parlare con noi. Vi ricordiamo anche che Uru ha un proprio profilo Twitter, uru-basso.rv, che è appunto RW, che sta per Radio Wombat. E avevamo già parlato la volta scorsa del coltan, questo minerale, diciamo, utilizzato nell'hardware e anche in tutte, diciamo, gli strumenti che utilizziamo, molti strumenti che utilizziamo in casa, ma soprattutto le realizzazioni cellulari, tablet e computer. E coltan, che è questa appunto miscela di il nome viene dall'unione di delle parole che stanno a identificare i due minerali, cioè la columbite col e la tantalite tan coltan. E alla base sul coltan c'è, cioè, questo conflitto a bassa intensità ma ad altissima sofferenza umana, e che spesso porta a una destabilizzazione delle aree in cui viene estratto, e alimenta un lucroso traffico di minerali. Il 50% del coltan si trova proprio nel Congo orientale, una striscia che va da nord al sud, e le bande di mercenari hanno un metodo, oltre ad essere pagate dalle multinazionali che operano in queste zone, l'estrazione del coltan, hanno anche un ulteriore metodo molto semplice per fare i soldi: mettono il pizzo sui minatori. Ogni chilo di minerale estratto, questi sono obbligati a pagare una quota a questi mercenari, che già sono al soldo, vengono pagati dalla multinazionale, e solo dopo aver versato questa tangente possono andare fino a Rubaia o fino a Goma, che sono città più grandi vicine all'area da cui viene estratto il coltan, e una decina di chilometri più a sud, e passare il confine in Ruanda. E questi minatori lo fanno quasi sempre camminando per giorni e giorni, con sacchi 30 e 40 kg, e una volta in città vendono la loro merce. Da qui inizia un percorso che porta questi minerali nei device tecnologici, in particolar modo nella California, ecco, diciamo così, con i proventi che traggono sia dalla paga che le vengono date da multinazionali dell'hardware, in questo caso, sia dal pizzo impongono ai lavoratori. Queste bande mercenarie acquistano ulteriori armi che garantiscono ulteriore potere, garantiscono ulteriori profitti, e che vengono utilizzate anche nel conflitto, diciamo, che vede altri tipi di multinazionali tentare accaparrarsi, combattersi per i diamanti, l'oro, il petrolio e via dicendo. È stata fatta una riforma negli Stati Uniti che prevede l'obbligo di certificazione a provenienza, ma un tentativo è portare alla luce le aziende che si riforniscono dei giacimenti illegali. Ma le multinazionali, tranne quelle poche che hanno avuto il permesso del governo congolese, hanno iniziato ad acquistare il coltan a Kigali in Ruanda, e in questo modo il materiale risulta pulito, nel senso che viene considerato che viene importato da queste multinazionali in un paese che non è considerato un paese in cui ci sono questo sfruttamento della popolazione e questo sfruttamento del sottosuolo. Quindi 10.000 abitanti vivono grazie alle miniere, per esempio, su ogni 10.000 abitanti vivono grazie alle miniere, cioè questa, diciamo, questa umanità, questo specie di girone infernale che è bruciato dal sole e sfigurato da colpi piccoli sta lì a lavorare, insomma. I tunnel sono stretti, neri, puntellati malamente e i colli sono continui soprattutto durante la stagione delle piogge. E in superficie il materiale grezzo, come detto, viene raccolto in sacchi, fatto scivolare a valle e infine portato al fiume, in particolar modo al villaggio di Coe, dove viene lavato, separato un magnete e lasciato asciugare. Raccolto nuovamente arriva a spalla, a rubaia e poi successivamente o a goma, si parla sempre di zone, paesi del Congo, oppure passa il confine, va in Ruanda e da qui inizia un ulteriore percorso. Il coltan, insomma, viaggia veloce e niente. Vi aggiorneremo anche su questo aspetto, come stiamo aggiornando in continuazione su quelle che sono, diciamo, lo sfruttamento sia del sottosuolo sia delle persone, dei lavoratori più macroscopici che avvengono in, nel continente africano. Adesso passiamo ad un altro gruppo che è le Tigi e Setamburen, che come detto precedentemente faceva parte anche questo della grande orchestra di musica fondata dal governo appena la Guinea è diventata indipendente e che poi successivamente si sono si è divisa e questo gruppo in special modo era quello che era diventato le Flair de Guinée. Dopo ha cambiato ancora nome ed è diventato Kele Tegui e Setamburen. Il gruppo è guidato dal sassofono e dalla tastiera di Geleti Traoré che hanno cominciato suonando in un nightclub a Conakry, Le Pilot, che è esattamente il nome da cui hanno preso il posto, da cui hanno preso il nome il gruppo che abbiamo sentito prima. E fecero anche con questo nome una serie di registrazioni per l'etichetta discografica Silifon, quella l'etichetta statale di cui abbiamo parlato prima. Di loro vi facciamo sentire Temedì. Oh, yeah. matakwe igoro matakwe igoro matakwe koro van matakwe tatinja tatinja tatinja tatinja chupita chupita emono kwe koro matakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe tatakwe libro, David Van, scritto da David Van Reybrouck, che si intitola Congo, edito dall'Universale Economica Feltrinelli. Non abbiate paura, anche se è un tomo di circa 700 pagine. Allora, lui è belga naturalmente, quindi del paese dei colonizzatori del Congo. Il libro, lui non è che sia chissà cosa, però il fatto è che non abbiamo tanti libri scritti sull'Africa in generale, tradotti in italiano sto parlando, sull'Africa in generale, tantomeno su un paese africano in particolare, quindi vale sicuramente la pena di leggerlo. Specialmente per la parte in cui parla del colonialismo del Belgio, che è la parte sinceramente più interessante, perché l'ultima parte si vede un po' troppo, che non è proprio... Vabbè, insomma, comunque vale sicuramente la pena di leggerlo. Vi leggo la prima pagina per farvi entrare in tema del libro. È sempre l'oceano, ovviamente, ma si vede che qualcosa è cambiato. Il suo colore è diverso. Le onde basse e larghe continuano a dondolare delicatamente. C'è ancora soltanto oceano, ma il blu si macchia poco a poco di giallo. Però non si ferma non si forma il verde, contrariamente al ricordo che ci ha lasciato la teoria dei colori, ma qualcosa di torbido. L'azzurro luminoso è scomparso. L'increspatura turchese sotto il sole di mezzogiorno è sparita. Il cobalto insondabile da dove sorgeva il sole, l'oltremare del crepuscolo, il grigio piombo della notte finiti. D'ora in avanti è tutto un brodo giallastro, ocra, ruggine. Ti trovi ancora a centinaia di miglia dalla costa, ma già lo sai, qui comincia la terra. Il fiume Congo si getta nell'oceano Atlantico con una forza tale da cambiare il colore dell'acqua per centinaia di chilometri. Un tempo il viaggiatore che navigava per la prima volta verso il Congo con il piroscafo, a causa di questo scolorimento, pensava di essere quasi arrivato. Ma l'equipaggio e i veterani, che arrivano ben presto al nuovo venuto, che bisognava navigare ancora per 2 giorni pieni, giorni in cui avrebbe visto l'acqua diventare sempre più sporca e scura. Appoggiato al parapetto della poppa, il viaggiatore notava il contrasto sempre più accentuato con l'acqua blu dell'oceano che l'elica continuava a far risalire dal fondo. Dopo un po' si vedevano passare zolle, isolette, grossi ciuffi d'erba, risputati dal fiume, sballottati ora dalle onde dell'oceano. Attraverso l'oblò della sua cabina distingueva le forme lugubri, dell'acqua, pezzi di legno e alberi sradicati, strappati via molto tempo prima da oscure foreste vergini, perché i tronchi neri erano senza foglie e i monconi spogli dei grossi rami roteavano talvolta sulla superficie prima di rituffarsi. Quindi ve lo ridico, è David van Reybroek, Congo, dell'Universale Economica Feltrinelli. Momo van der Suma era un cantante, compositore e sassofonista appunto della Guinea, con una voce veramente caratteristica. Momo Vandel ha iniziato a suonare una dance band negli anni 50 e poi successivamente anche lui ha fatto parte di questa rivoluzione culturale, parte della Orchestra Nazionale Sili, quella di cui abbiamo parlato precedentemente e da cui sono derivati tutti i gruppi che vi abbiamo fatto sentire. Questo gruppo di musicisti, appunto, d'élite della Guinea, che era stato scelto per viaggiare in tutto il paese, ispirare e istruire musicisti e aiutare a creare le orchestre regionali. Questo era un punto chiave del programma di autenticità, quello utilizzato da chi aveva lottato per l'indipendenza della Guinea, appunto per promuovere e far proliferare l'autentica musica tradizionale guineana dopo la regola coloniale. Dalla metà degli anni 80 anche Momo Vandel Suma, così come gli altri musicisti che abbiamo sentito precedentemente, comincia un percorso proprio, e a differenza degli altri un percorso solista sostanzialmente, compositore in particolar modo affidandosi al suo sassofono e alla sua voce. E morto improvvisamente nel giugno del 2003, e ancora al momento della sua morte era direttore musicale del circo Baobab, uno dei pochissimi circhi africani che appunto non utilizza proprio appunto gli animali, perché dal loro punto di vista sarebbe un momento utilizzasse una gallina o roba di questo genere, per cui ecco, quindi acrobati, contorsionisti e via dicendo. Era appunto il direttore museale del circo Baobab. Di Momo Vandel Suma vi facciamo sentire Felenkoyev. Thank you. de fait le bruit. Dorma mundo conna. Mais de fait le coco. Thank you. Momo van der Sumacum, Felenko Jef, uno dei tanti, e in questa trasmissione abbiamo sentito alcuni musicisti, compositori, direttori d'orchestra, che comunque hanno iniziato a suonare, a cantare, a trasmettere, a ricercare le proprie radici culturali successivamente, a un periodo appena successivo all'indipendenza. E come tutti gli altri brani, sono brani abbastanza lunghi, proprio perché ci tengono a esprimere, insomma, tutto quello che vogliono esprimere in quel momento. E talmente lunghi che in questa 31ª puntata di Suoni Guineiani, Musica Guineiana, solo quattro pezzi, e quindi anche la prossima la puntata numero 32, sarà una puntata dedicata alla musica guineiana, la musica della Guinea, che ha come capitale Conakry. Ricordiamo Uru, in onda, in diretta il venerdì alle 21:30, in replica il sabato alle 10, la domenica alle 10 e il lunedì alle 15, un nuovo orario spostato un'ora più avanti, cioè alle 15 invece che alle 14. Ricordiamo anche i social della radio, di Radio Wombat, il sito è wombat.noblogs.org, twitter.com/radiowombatfi, l'email postawombat@insiberia.net. Ricordiamo anche Uru, ha un proprio profilo Twitter, Uru_RW, che sta appunto per Radio Wombat. Ciao a tutte e tutte, ci sentiamo venerdì prossimo alle 21:30.